Mambo, mambo, che te merito, ricca, ricca, ricca, giù burle tu. Ai, mambo, mambo, che te merito, ricca, ricca, ricca, giù burle tu. A ti solito io ti amare, a ti solito io